Cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. L'amore è il trionfo dell'immaginazione sull'intelligenza. Henry Louis Mencken. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colore. Ogni giorno ti scassa un pochino. We'll be right back. c'è la musica che pesta. Ascoltatori e danzatori, chiamate i vostri genitori. Qui c'è musica che pesta. Suona il maestro e roba onesta. Mischia bene sti dischi, vai G. Cammino del Gigi D'Agostino. Officina emotiva. Domenica 11 febbraio 2007, ore 18. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Pascià, località La Pineta, Tarragona, Spagna. Put some soul in my machine. Machines do not dream. Feed your dreams in my machine. refuge in love, the ship will overload. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni.

cause e nella successione dei fenomeni. D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Metropolitan, Casteggio, Pavia. Nel nostro giardino, qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Un altro modo di fare musica. We'll be right back.